Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a questo speciale Il Meglio di Smart City, dedicato ad alcune novità nel settore dei rifiuti e del loro riciclo. Quella di trovare un utilizzo per i milioni di tonnellate di rifiuti di ogni tipo che produciamo sul pianeta, infatti, è una delle sfide più affascinanti e anche insieme più complesse che ci troviamo davanti. D'altronde, fuori dalla retorica dei termovalorizzatori contro la raccolta differenziata, l'unico processo che può gradualmente portare al quasi azzeramento dei rifiuti consiste nel progettare a monte materiali e prodotti affinché siano riciclabili e nell'escogitare a valle nuove filiere per riutilizzare quello che è riciclabile, altrimenti non sarebbe. E questa in fondo l'idea dell'economia circolare. Come dicevo, è una sfida persino più complessa di quella della sostenibilità in campo energetico, non fosse altro per il fatto che mentre le possibili fonti di energia sono tutto sommato poche, le tipologie di rifiuti sono invece numerosissime. Materiali poveri, come le macerie da demolizione, ma anche materiali con caratteristiche tecniche molto avanzate, come i tessuti da sala operatoria. Ebbene, trovare un'applicazione per questi materiali, individuando nuove filiere industriali in grado di utilizzarli, è stato precisamente l'obiettivo del progetto Low Waste, che a Ferrara ha messo a punto 4 nuove filiere sperimentali, capaci anche di creare economia e lavoro, soprattutto per alcune categorie cosiddette svantaggiate. Il progetto Low Waste è stato coordinato dal Comune di Ferrara con il contributo di un finanziamento LIFE e di vari partner come il gruppo ERA, Impronta Etica, Reuse e soprattutto la cooperativa sociale Città Verde, che è quella che materialmente ha studiato e lavorato i materiali di recupero. Ed è proprio dal direttore di Città Verde, Giorgio Rosso, che ci siamo fatti raccontare come è andata. Sentiamo. Senta, allora, per capire subito di che cosa stiamo parlando, ci dica che cosa fate con i detriti da demolizione e i rifiuti organici, che forse sono i due materiali, diciamo, più poveri dei quattro che avete preso in considerazione. Certamente, allora, per gli scarti di demolizione, diciamo, esiste già in parte un mercato, che è quello di sostanzialmente fare diverse tipologie di pietrisco che vengono utilizzate per sottofondi stradali o riempimenti. Nel caso del progetto abbiamo spinto un po' di più la ricerca e ci siamo spinti a fare dei pannelli per rivestimenti di facciate che poi sono sottoposti a delle prove tecniche per diversi utilizzi. Quindi diciamo una nobilitazione maggiore di quella che si faceva prima con lo stesso materiale, no? Esattamente. Nel caso invece dell'organico si tratta sempre di scarti alimentari, quelli che nella sostanza non possono più essere utilizzati né per l'alimentazione umana, né per quell'animale, né per altri fini, diciamo, più nobili. E in questo caso lo scopo del progetto è stato quello di studiare su piccola scala il recupero di questi scarti. Quindi stiamo parlando di compostaggio di comunità, stiamo parlando di reattori che possono essere posizionati al di fuori delle mense delle scuole materne, piuttosto che dei ristoranti o dei camping, accogliere lo scarto alimentare non più utilizzabile e da questo produrre compost tramite un processo aerobico controllato. Ecco, quindi, il sistema. Mentre su grande scala magari conviene fare biocombustibili, cose di questo genere, voi dite sulla piccolissima scala conviene andare sul compostaggio direttamente. Sì, è un po' questo il concetto, no? Sì, il concetto è questo. I vantaggi oltre sono soprattutto nella fase di trasporto, quindi con un risparmio notevole, certo, dal punto, certo, di vista dei trasporti. Mi sembra invece importante sottolineare che queste opportunità, questo tipo di filiere sono molto significative per il terzo settore, per il lavoro che fate voi, insomma. Ci spiega, certo, un po'? Beh, allora, io lavoro in una cooperativa sociale che si chiama La Città Verde, qui nella provincia di Bologna. Siamo una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, il che vuole dire che siamo un'azienda a tutti gli effetti che però ha nel proprio organico, nel proprio personale regolarmente assunto, almeno il 40% di persone appartenenti a fasce deboli. Categorie, diciamo, cosiddette svantaggiate, di vario tipo. Svantaggiate, esattamente. Noi siamo 95 lavoratori e l'economia che viene fatta è un'economia basata, diciamo, su un territorio abbastanza definito e su dei business, diciamo, che non hanno una marginalità esagerata. Cioè, insomma, sono dei business che non sono in grado di remunerare un capitale di rischio, cioè non ci si investe sopra, ma sono in grado di dar da mangiare a quelli che ci lavorano dentro, insomma, no? Per essere il primo scopo è quello, esattamente. Ecco, creare lavoro. E perché queste attività sono particolarmente tagliate sui vostri bisogni? Beh, perché innanzitutto, come dice anche il progetto Low Waste, sono basate su una taglia locale. Si va

l'interesse immediato, perché sono quelli che fanno pagare la tassa sui rifiuti, e anche la territorialità giusta per essere al centro di questi progetti, è vero? Assolutamente, i comuni o le associazioni di comune, ed è molto importante che anche la multi-utility che si fa carico della gestione dei rifiuti sia coinvolta in questo tipo di processi, questo è assolutamente necessario. Ed eccoci di ritorno in studio. Ebbene, avete presente che cos'è l'effetto isola di calore? È quel surriscaldamento che tipicamente si verifica nei centri urbani ed è dovuto a un mix di cause diverse. Prima di tutto la grande abbondanza di cemento, soprattutto di asfalto, che con il suo colore scuro assorbe con grande efficacia la luce solare raggiungendo alte temperature. In secondo luogo c'è il problema della presenza di edifici molto alti che rendono difficile la dispersione del calore, in particolare l'irraggiamento verso il cielo. Risultato? Beh, alcune metropoli sperimentano picchi di temperatura più elevati di 10 gradi rispetto alle aree circostanti. Ve ne parlo perché tra i materiali che si stanno studiando per ridurre questo fenomeno ce ne sono alcuni che derivano dai rifiuti. Smart City, la città intelligente. Eccoci di ritorno, Maurizio Melis al microfono per questo speciale estivo Il meglio di Smart City. Parliamo di rifiuti e di come con un po' di ingegno, insomma, possano trasformarsi in nuove materie prime e dar vita a nuove filiere industriali. È il caso di quanto ci ha raccontato Marco Imperadori, professore del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, nonché delegato del Rettore per i rapporti di Ateneo con l'Estremo Oriente, che ci ha raccontato di due idee che arrivano proprio dall'Asia e che hanno in comune il fatto di utilizzare un rifiuto, anzi due rifiuti, per dar vita a materiali in grado di combattere l'effetto isola di calore, cioè il surriscaldamento tipico a cui vanno incontro le aree urbane, soprattutto le grandi metropoli. Sentiamo. Primo caso arriva dal Giappone, dalla Komatsu Seiren, attraverso Green Beats, che è un prodotto, in realtà è una tavella che poi può diventare un autobloccante. Una piastrella. Una piastrella, una sorta di piastrella, ottenuta da cosa? Dal fango. Quindi da fanghi che sono civili o industriali, chiaramente trattati e quindi inertizzati dal punto di vista di rischi batterici o anche chimici. A questo punto cosa si fa di questi fanghi? La stessa normativa europea non consente più di usarli in agricoltura, come era possibile in passato. In Giappone hanno deciso di cuocerli, in sostanza di fare delle piastrelle, delle ceramiche estremamente porose, e queste possono essere utilizzate secondo svariate tipologie, quindi possono essere utilizzate per fare un tetto verde in cui far crescere del sedum, chiaramente alimentando con acqua che potrebbe essere quella di pioggia. Ecco, perché questa porosità rende queste mattonelle, diciamo, in grado di assorbire, di contenere come delle spugne una grande quantità di acqua, no? Sono proprio come delle spugne, quindi assorbono una grande quantità di acqua che rilasciano in un tempo dilatato, questa può alimentare del sedum o del verde, con delle tasche evidentemente, oppure evaporando chiaramente crea un effetto di evaporative cooling e quindi consente di mantenere la superficie più fresca rispetto a un tetto invece piano o comunque inclinato, irraggiato dal sole cocente, quindi dall'irraggiamento diretto del sole estivo per esempio. È un po' il concetto in un certo senso del tetto verde che mantiene fresco quell'edificio sotto grazie all'evaporazione, lì cioè, ci pensa la piastrella a fare questo lavoro. Certo, chiaramente ci pensa la piastrella che deve essere alimentata d'acqua, quest'acqua però se ci pensiamo bene potrebbe essere accumulata con vasche di accumulo facilmente, ripompata con una banale pompa, sistema anche fotovoltaico se si vuole, alimentata nei momenti in cui non c'è pioggia diretta e quindi mantenere il sistema attivo. Pensate che questo tipo di piastrella verrà probabilmente utilizzata lungo il percorso delle Olimpiadi di Tokyo per mantenerlo fresco e quindi gli atleti, in Tokyo è una città torrida d'estate, correranno su questo percorso che verrà quindi reso più fresco attraverso questa soluzione tecnologica. Ecco, un'altra idea, se ho capito bene, viene anche questa però dall'Oriente, sì. E ha a che fare con le ostriche. Sì, questa viene dall'Oriente perché in realtà io sono il delegato del Rettore del Politecnico di Milano per tutti i rapporti con l'Oriente e vado spesso a Macao, dove abbiamo rapporti con l'Istituto di Studi Europei, e mi portarono a Zhuhai, che è una città enorme, cresciuta alle spalle di Macao, un po' come Shenzhen dietro Hong Kong, e vidi queste enormi coltivazioni di ostriche per alimentazione e anche per creare o perle o madreperla da bottoni. La casa del pescatore è una casa in cemento armato con un tetto piano. Cosa aveva fatto questo pescatore? Aveva messo dei cumuli di ostriche, quindi con questa superficie termoriflettente. La parte madreperlacea, quella interna che riflette proprio la luce. Quella lì, su un tetto piano, che quindi invece di scaldarsi era da un lato ventilato, con questa rete teneva ferme le ostriche e le rimbalzava. Allora cosa mi è venuto in mente? Insieme a un gruppo di miei tre tesisti, che hanno fatto uno stage presso Italcementi Lab a Bergamo, d'accordo con Italcementi, di sviluppare un tipo di cemento della loro linea e-design, quindi è sperimentale, quindi non è ancora un prodotto, ma di fare una sperimentazione per tritare, che cosa? I resti dei gusci che nella provincia di Bergamo vengono utilizzati per creare bottoni, cioè resti di bottonifici reperibili in Italia, è uno scarto, triturarli, mischiarli a una mescola, a una malta cementizia e ottenere quindi un cemento che rimane a vista, una facciata, una copertura, immaginate, ma diventa in parte termoriflettente. Quindi brilla un pochettino al sole. È straordinario esteticamente, secondo me è anche molto bello, è anche molto chic se vogliamo, sembra un po' una palladiana ma con molto, molto fine questo triturato, che tra l'altro dà anche delle risorse meccaniche molto interessanti. Quindi la sperimentazione sta andando avanti e mi fa molto piacere che sia nata un pochino così da un intuito, se volete, un incrocio tra una esperienza accademica e però l'assistenza industriale e la perizia di una grande azienda italiana. Bene, grazie a Marco Imperadori. Ebbene, anche per quanto riguarda le acque reflue e gli scarichi fognari, se fino a pochi anni fa la parola d'ordine era depurarle prima di scaricarle nei fiumi o nel mare, questo per evitare l'inquinamento, il tema oggi è rendere questi processi sempre più efficienti dal punto di vista energetico e in secondo luogo il tentativo è quello di estrarre, insomma, da questi processi tutto il valore possibile. Per esempio è possibile ricavare dagli scarichi fognari una certa quantità di biogas, c'è persino chi come Abraham Estevez Nunes in Spagna ricava direttamente energia elettrica dagli scarichi fognari tramite un trattamento elettrochimico. All'Università di Verona invece hanno messo a punto un prototipo che mira a ricavare bioplastiche a partire sempre dagli scarichi fognari. Me ne ha parlato Francesco Fatone, ingegnere e ricercatore di impianti chimici del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona. Sentiamo. Sì, è un processo che rappresenta il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare negli impianti di depurazione. Si tratta di recupero di biopolimeri partendo dai fanghi di depurazione, ovvero dai solidi contenuti nelle acque reflue. Quello che resta al termine, diciamo, del processo di depurazione c'è acqua pulita e fanghi. E voi partite da questi fanghi. Esattamente, partendo da questi fanghi e applicando a questi fanghi una fermentazione acidogenica alcalina, che significa alcalina, utilizzando alcali silicati, che quindi hanno un forte valore aggiunto di rimuovere chimicamente la CO2 per ottimizzare il carbon footprint. Quindi sono dei sali, diciamo così, insomma, del materiale che voi mescolate a questi fanghi, reagisce con questi fanghi e cattura la CO2, che altrimenti verrebbe dispersa in atmosfera, una cosa che magari non si sa, ma tutti i materiali, diciamo organici che deperiscono si trasformano in CO2 che finisce in atmosfera. Questa roba voi la impedite? Esattamente, noi la impediamo utilizzando alcali silicati, ma l'obiettivo ultimo è quello di produrre substrato, che è un substrato organico, per andare ad alimentare il bioreattore dove vengono stoccati questi biopolimeri. Quindi la differenza con la produzione attuale di questi biopolimeri è che non utilizziamo substrato come il glucosio, ma fanghi di depurazione. Ok, provo a tradurre, cioè ci sono dei batteri che producono queste bioplastiche, adesso ne parliamo, invece di dargli in pasto zucchero, che costa molto, diciamo, gli date in pasto le acque reflue. Anzi, i fanghi. Mettete questi fanghi in un bioreattore e cosa fate lì? Innanzitutto i microrganismi che ci interessano sono fatti crescere a partire dai fanghi attivi di reattori convenzionali, ovvero dei nostri impianti di depurazione comuni. Noi qui attuiamo un regime di supernutrizione e digiuno. Perché? Perché in queste circostanze, durante la supernutrizione, si ha un forte accumulo di sostanza organica sotto forma di biopolimeri. Noi mettiamo via grassi e questi batteri mettono via i biopolimeri. È un po' così, no? Esattamente. E nella condizione di digiuno si creano le condizioni affinché questi batteri crescano e acquisiscano questo metabolismo, che quindi gli permette di accumulare e non consumare, in modo che poi noi recuperiamo i batteri. Belli cicci. Esattamente. Abbattiamo le membrane cellulari, quindi le andiamo a trattare per estrarre i biopolimeri e quindi recuperare la risorsa che può essere utilizzata, ad esempio per i sacchetti biodegradabili, per dire una delle applicazioni di questi biopolimeri. Insomma, diciamo che questi batteri, se voi gli deste sempre da mangiare, si riprodurrebbero continuamente. Invece con questi regimi di dieta uniti a supernutrizione ingrassano, che è il vostro obiettivo. Ecco, dicevamo, ci si fanno delle bioplastiche. C'è già un impianto di questo tipo a Bruxelles. Voi state lavorando invece in Italia per fare forse anche qualcosa di meglio, se ho capito bene. Esattamente, noi stiamo lavorando presso i laboratori dell'Università di Verona e anche presso le piattaforme sperimentali in provincia di Treviso, perché l'impianto dimostrativo che a Bruxelles attualmente è un processo particolarmente energivoro, perché lavora in condizioni aerobiche, l'aria bisogna fornirla, l'ossigeno. Cioè, insomma, funziona, il processo funziona, ma succhia un sacco di energia, così com'è non avrebbe senso, mi sembra di capire, no? Il bilancio è comunque fortemente positivo rispetto allo stato attuale, quindi comunque è un forte passo avanti verso l'economia circolare. Alla fine stiamo ottimizzando i consumi energetici e il carbon footprint complessivo del recupero di materia, in modo da avere una visione globale dell'impianto e non solo della materia recuperata. Si può intervenire già sugli impianti di depurazione esistenti o bisogna cambiare tutto per poter approfittare di questa opportunità? Questa è un'osservazione fondamentale, perché l'obiettivo è proprio quello di integrare il recupero di biopolimeri degli impianti esistenti. Ebbene, tra i rifiuti più difficili da trattare ci sono i materiali compositi, come per esempio la fibra di vetro o la fibra di carbonio, e anche tutti quegli oggetti come le schede elettroniche che sono formati da pezzi molto piccoli e connessi fra loro in modo complicato. Di recente però è stata presentata una nuova tecnologia che potrebbe davvero rappresentare una rivoluzione in tutte le situazioni di questo tipo. Si chiama deframmentazione elettrodinamica e un prototipo di macchina basata su questo principio, brevettato e di cui ora si sta sviluppando una versione industriale, era presente all'ultima Clima House, la fiera dell'edilizia sostenibile di Bolzano. Lì un ricercatore ha preso un pezzo di calcestruzzo e lo ha messo in una vaschetta piena d'acqua. Ha inserito il tutto nella macchina in questione, che ha emesso qualcosa a metà tra dei colpi e dei singhiozzi, 7 o 8 al massimo, fine del processo. A quel punto ha rovesciato il contenuto della vaschetta e il calcestruzzo non c'era più. Nessuna martellata o macinazione meccanica, mi assicurano. Quei colpi erano in pratica dei piccoli fulmini. Come poi mi ha spiegato Patrick Dalla Sega, ricercatore del Fraunhofer Institute, che è il più grande istituto di ricerca europea, che ha una sede anche a Bolzano. Sentiamo. Allora, innanzitutto la tecnologia si chiama defragmentazione elettrodinamica. Questo vuol dire che il materiale composito viene decomposto con impulsi elettromagnetici, no? Il funzionamento della macchina è che con un impulso elettromagnetico attraversa il materiale composito e, facendo così, tra due fasi crea un lampo plasmatico che con una pressione molto elevata di 10 gigapascal riesce a suddividere il materiale nei componenti principali. È come se esplodesse dall'interno, se ho capito bene. Come un'implosione, sì. Ecco, io quello che ho capito è che questi impulsi di corrente elettrica brevissimi, addirittura siamo nei nanosecondi, attraversano il materiale, ma per una ragione che a me sfugge completamente, come dire, seguono i profili, diciamo, degli aggregati che ci sono dentro. Per esempio, se c'è un sasso, la corrente circola intorno a questo sasso, produce questo lampo di cui lei mi parlava, e questo fa spaccare il materiale. Quindi nessun effetto meccanico. No, nessun effetto meccanico. Ovviamente la corrente elettrica viaggia sempre dove c'è la resistenza minore, no? Quindi tra due fasi la resistenza... Fasi vuol dire due materiali diversi. Due materiali diversi, la resistenza minore, e quindi attraverso quel percorso la corrente elettrica viaggia e quindi riesce a suddividere poi il materiale nei componenti principali, nelle materie prime. Certo, certo. Ecco, con che materiale si può utilizzare? Con cosa state lavorando voi? Allora, adesso qua in fiera abbiamo questo prototipo qua, dove facciamo vedere con materiale calcestruzzo che è possibile suddividere la sabbia, l'argilla e i diversi materiali. E però stiamo anche pensando a un'applicazione tipo scorie di inceneritori, no? Che ovviamente oggi non possono più essere riutilizzate o riciclate, e facendo così si potrebbe poi diminuire la quantità dei materiali persi. Di quelli che vanno poi soprattutto in discarica, perché lì si tira fuori vetro, si tirano fuori metalli. Ho visto che avete diciamo, utilizzato questo metodo anche con delle schede elettroniche o con materiali come la fibra di carbonio, no? Lì che cosa riuscite a tirare fuori? Ovviamente con schede elettroniche, con circuiti elettronici, avere le materie prime è molto importante, perché i circuiti elettronici sono composti di materiali molto costosi, no? Tipo l'oro, l'argento, il silicio. Oltre a ciò, cioè, questa metodologia si può utilizzare per diversi materiali, cioè per quasi tutti tranne leghe metalliche. Per esempio, altre applicazioni sono i pezzi di plastica delle automobili, no? Che sono fatte con fibre di polimeri, no? Quindi la produzione di queste fibre è molto costosa, e quindi potendo riciclare queste fibre è un vantaggio economico per tutto il settore automotive. Ovviamente qua in fiera abbiamo il prototipo, però stiamo sviluppando degli impianti industriali per poter usare questa tecnologia su vasta scala. Beh, che dire, per concludere, non tutte le innovazioni sono uguali. La maggioranza perfeziona dei percorsi già battuti e sono poche quelle che aprono strade completamente nuove. I materiali compositi hanno tantissimo da offrire in termini di prestazioni, ma sono sempre risultati difficilissimi da riciclare e perciò anche particolarmente costosi, così come i componenti elettronici e tanti altri accrocchi difficili da smontare. Per questo questo apparato per la frammentazione elettrodinamica sembra davvero un passo avanti molto significativo. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Un saluto a tutti voi.